possibilità di spostarsi, perché si impazzisce nelle celle infuocate con questo caldo. Stavolta al carcere di Mantova c'è stata una protesta anche pesante, perché con celle incendiate, allagate per due sere di fila, sabato e domenica, c'è stata questa forma di protesta perché i detenuti avevano il problema del cibo che faceva schifo, il fatto stesso che la sporcizia non veniva pulito il carcere, i topi scorrazzavano nelle sezioni. E poi c'era anche, in tutto questo disastro, non avevano nemmeno la possibilità di vedere i canali della televisione. Il regolamento carcerario del Ministero parla di che i detenuti devono avere a disposizione nella televisione almeno 10 canali per poter scegliere, insomma, passare un po' la serata. E invece ne funzionano soltanto due nel carcere di Mantova, Rai 3 e Rai 4, e quindi hanno da tempo chiedevano un cambiamento di queste, il cibo scadente, la sporcizia, i topi che scorazzavano, tutte queste cose qui. E poi dice il direttore, diceva che non riusciva a far funzionare l'antenna per poter prendere anche le altre stazioni televisive, cosa un po' assurda perché oggi sono tutti capaci a sistemare un'antenna televisiva. Hanno fatto una protesta sabato e domenica, hanno bruciato i materassi, hanno allagato le celle e anche le sezioni, insomma abbastanza. Quelle un po' questa protesta qui, ha il quadro di tutte le proteste successe più o meno in quest'estate, non con un obiettivo preciso di un percorso così, o di miglioramento o di sostanziali riforme o di cambiamento della struttura carceraria, della situazione carceraria, ma esplosioni di rabbia dovute a situazione inaccettabile. Che spesso per la stupidità vengono, per la stupidità di chi dirige quel carcere, vengono appunto fatte pesare sulla pelle di chi sta già in galera e con questo caldo soffre il doppio. Tutta questa vicenda, quindi queste tensioni, queste proteste, qualcuna è arrivata proprio ai livelli di rivolta, perché si sono a Parma, abbiamo visto quest'estate, alcune molto forti, tutte proteste appunto per insofferenza impossibile, cioè oltre la sofferenza dovuta al carcere stesso, ma addirittura qualcosa di più. E allora tutto questo fa da pandant, si lega alla ulteriore tirata d'orecchie che la Corte di Strasburgo, la Corte Europea di Strasburgo, quella per la difesa dei diritti umani, soprattutto per le persone nel settore, per le persone carcerate, ha segnalato ancora una volta che il sovraffollamento continua a riprendere nelle carceri italiane. Ci sono quindi le celle sono insufficienti per quelli che vengono ficcati dentro, buttati dentro con la violenza. E a proposito di violenza, dice la Corte di Strasburgo, l'ha detta avendo fatto delle visite nelle carceri, ma soprattutto anche nei luoghi, nelle camere di sicurezza dei commissariati, delle caserme dei carabinieri, dove vengono buttate le persone appena arrestate, no? Ecco, bene, segnalano casi di violenza eccessivi, un atteggiamento da parte delle forze dell'ordine eccessivamente punitivo e arrogante nei confronti delle persone tratte in arresto. Questo segnala, poi vabbè, i processi troppo lunghi, l'enorme numero delle persone in carcere in custodia cautelare, cioè non ancora condannate, ma che sono appunto in attesa del processo, che è un numero ancora altissimo. In Italia si aggira sul 35% le persone, la percentuale delle persone in carcere non ancora condannate, e rispetto a una media europea che è al di sotto del 20%, oscilla dal 15% al 18%, da noi è il doppio, 35%. Bene, per tutte queste cose il Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d'Europa, che sta a Strasburgo, ha detto, dopo la visita che ha fatto lo scorso anno, dice attenzione che qui potremmo fare un'altra appunto sanzione fortissima come quella del 2012. Ricordate che l'Italia venne condannata per trattamenti disumani e degradanti, che è una cosa che non è che si dovrebbe, cioè un presidente del Consiglio, ma anche tutti i ministri, ma anche tutti i parlamentari, dopo una condanna del genere dovrebbero andarsi a nascondere, perché io credo che dovrebbero avere vergogna di girare tra la gente. Ovviamente in Italia si è persa questa attenzione. Per esempio, una volta, qualche tempo fa, se succedeva una cosa del genere, nemmeno il barista gli dava più il caffè. Rifiutavano molti baristi di dare il caffè quando il comportamento dei parlamentari o delle persone di governo era talmente schifoso, come spesso è stato in questo paese e continua a esserlo, da appunto rendere, diciamo, inaccettabile perfino il servirgli un caffè, oppure ci sputavano dentro e gli davano la tazzina di caffè, perché insomma c'è un qualcosa rispetto alla quale bisogna dire di no, bisogna ribellarsi, non si può accettare, altrimenti arriviamo appunto ai processi per i campi di concentramento, dove tutti dicevano abbiamo ubbidito a un ordine chi ubbidisce è il vero criminale. Questo è un po' il discorso che è stato trattato da numerosi dibattiti, libri, eccetera. Comunque, per rimanere alla situazione, tra l'altro la Corte Europea, il Comitato per la Prevenzione della Tortura del Consiglio d'Europa, si è soffermato abbastanza sui maltrattamenti delle persone arrestate, fermate e denunciate. Quindi quelli non ancora nemmeno in galera, nemmeno condannati, proprio appunto i commissariati e le caserme dei carabinieri sono qualcosa di abbastanza, diciamo, perché sono luoghi molto meno trasparenti. Ora non è che dico meno trasparente il carcere, ma non perché il carcere sia trasparente, ma semplicemente perché mentre in carcere ogni tanto vengono fatte, ci sono delle anche persone civili, l'educatore, lo psicologo, c'è gente che gira, ci stanno associazioni che le frequentano, insegnanti perché c'è la scuola, nelle caserme e nei commissariati non ci va nessuno. Questi hanno segnalato luoghi eccessivi maltrattamenti delle persone arrestate, anche dei pazienti psichiatrici, da parte di chi li ha in custodia. Quindi un quadro nero da, i giornalisti direbbero, da paesi del terzo mondo, ma qui, a parte, senza fare le graduatorie, fa veramente schifo. Ma adesso passiamo a vedere un po' più concretamente, diciamo più in maniera sensata, come mai, che cos'è questo suicidio? Il suicidio è la persona che si toglie la vita, e come mai in carcere arriva a livelli così stratosferici? Allora, un po' di storia per capire come è stato trattato, quando nell'antichità, nelle prime civiltà che avevano una scrittura, quindi che hanno lasciato in qualche modo una scrittura, veniva trattato il suicidio. In generale non vediamo quello in carcere, poi ci sposteremo da quello in carcere. Allora, in molte civiltà il suicidio in gran parte dei casi veniva visto come un fatto sacro. La persona che si toglie la vita è perché vuole in qualche modo non accettare più una vita di sofferenze, ecco, oppure una vita che non risponde a quelle che erano le sue aspettative. Quindi sia per esempio in Cina, in Giappone l'arachidi è ancora, fino a qualche tempo fa era ancora un momento addirittura alto di una persona che aveva fallito il proprio obiettivo di vita, faceva l'arachiri, cioè il suicidio, e c'era tutto un rituale, quindi erano persone stimate quelle che facevano questo. Così in Tibet, così in Cina, nell'antichità non vi è assolutamente nessuna demonizzazione di questo comportamento. Addirittura sapete tutti la storia nell'antico Egitto, che la regina Cleopatra, no, famosa perché ci hanno fatto film, libri eccetera, anche lei praticò il suicidio facendosi mordere dal crotalo, da questo diciamo animale sacro anch'esso, evitando l'aspide, era ritenuto questo serpente velenoso, una specie diciamo di animale sacro, si fece mordere e morì di questo veleno, perché appunto anche lei aveva perso, era stata sconfitta, e quindi era giusto che si togliesse la morte. Anche le culture, molte culture del nord, per esempio il Wotan, questa figura mitologica della cultura nordica, nord europea, addirittura praticava, cioè il suicidio, si era praticato il suicidio in omaggio a quella che chiamavano la signora della corda, per simboleggiare proprio la corda dell'impiccato, perché il suicidarsi era anch'esso un gesto nobile. Per esempio anche la storia delle grandi battaglie raccontano che il generale sconfitto, il generale si suicidava, così come il comandante della battaglia navale perdente, e così via. Le uniche culture che hanno rifiutato, anzi hanno demonizzato il suicidio, sono state queste, da cui diciamo queste tre grosse culture, diventate poi anche religioni, che hanno riguardato diciamo questa area dove abitiamo noi, che sono quella ebraica, che addirittura veniva impedita la sepoltura ai suicidi perché era tenuto un gesto contro la divinità, quella cristiana, che deriva appunto anche da quella ebraica, e quella cristiana addirittura fecero dei convegni per dire che era, in qualche caso si arrivò a dire che era il demonio che ti portava a suicidarti, quindi tu eri diventato schiavo del demonio, e anche l'Islam, in cui il suicidio è vietato, perché poi queste tre religioni hanno molti punti in comune, perché derivano l'una dall'altra, diciamo sono più o meno intorno allo stesso ceppo, anche per questo sono in conflitto, perché come sappiamo tutte le teorie, tutte le religioni, tutte le ideologie che provengono dallo stesso ceppo, poi per concorrenza hanno grosse conflittualità, perché investono sulla stessa area, sullo stesso gruppo di popolazione. Quindi nell'antica Grecia il suicidio non era ben visto, però non era nemmeno demonizzato, addirittura era praticamente ignorato, non si consiglia, infatti non c'è nemmeno una parola nella Grecia antica che per spiegare il suicidio, veniva assimilato all'uccisione di un parente, come perché la persona stessa faceva parte di questo insieme della famiglia. Però nell'antica Roma invece di nuovo viene valorizzato, anche lì poi come sappiamo molti generali, combattenti eccetera, quando perdevano la battaglia praticavano il suicidio come fatto importante. C'è una bella lettera per esempio di Seneca, tra le lettere a Lucilio, in una dice: non è un bene il vivere, ma il vivere bene. Quindi come per dire, se tu non riesci a vivere bene non ha tanto senso che continui a vivere. Il vivere bene rispetto a che cosa? Alle proprie aspettative, non ci sono dei criteri per tutti. Se non riesci a vivere bene non ha senso vivere. E conclude questa lettera, dice: morire bene significa sfuggire al pericolo di vivere male. Ecco, questa è Seneca. No, poi per seguire un po', ma a saltelloni andiamo in questa storia del come viene considerata dal suicidio, e nella prima struttura, una delle più importanti e più vicina a noi, più moderna, diciamo, dei corpi giudiziari, il Corpus Iulis di Giustiniano nel 500 d.C., il suicidio viene considerato, riprendendo più che altro appunto dalla cultura romana e anche da quella, diciamo, che in quell'area ancora un po' in tutto il mondo dominava, comunque nel Corpus Iuris Civilis di Giustiniano il suicidio non è considerato un male, ma se è giustificato, ovviamente, no? Quindi c'è tutta una casistica per vedere quando il suicidio è giustificato, anche da fallimenti, da sconfitte, eccetera, da sofferenze eccessive, e non è un peccato quindi contro Dio. Tutta questa impostazione viene ribaltata completamente invece dalla cultura cristiana, che proprio in quegli anni diventa, diciamo, egemone in quest'area del mondo, in Europa, in Medio Oriente, in Europa, e fino al 600, quando invece prende piede anche l'Islam, comunque fino al 500 ancora è solo quella cristiana, e perché riprende appunto da quella ebraica che aveva detto che appunto il suicidio era contro Dio. E così dicono nei vari concili, per esempio in quello di Cartagine del 348, la Chiesa condanna esplicitamente il suicidio come atto contro Dio, a favore del diavolo. Addirittura nel concilio di Arles nel 452 successivamente dice che la morte volontaria è un crimine di ispirazione diabolica. Quindi tu, se ti suicidi, vuol dire che hai venduto l'anima al diavolo. Difatti i suicidi, sapete, sono ancora oggi nella Chiesa cattolica e anche in alcune cristiane, perché poi c'è stata la diaspora, ci sono state varie rotture, Lutero, Calvino, Zwingli, eccetera eccetera, e quindi è venuta fuori la cultura cristiana diversa da quella cattolica per molti aspetti, ma non per questo. Sul suicidio viene, tutti condannano, tutte queste aree, diciamo, varie articolazioni del cristianesimo condannano il suicidio come opera diabolica. Ovviamente il morto e il suicidio non gli viene fatto la funzione in chiesa, non viene seppellito nel cimitero cristiano, viene proprio così buttato fuori. Nel Medioevo ritorna un po' invece il culto del suicidio, perché anche se Lutero, per esempio, lui considerava anche lui, anzi più ferocemente gli altri, i suicidi come vittime del demonio, però non escludeva la possibilità che potessero avere una sepoltura cristiana, quindi dava doppio aspetto. Come avveniva questo passaggio? Valutando il perché e il per come, aveva uno deciso di suicidarsi e quindi diventava, diciamo, in balia di quelle che erano le autorità ecclesiastiche. Durante la Controriforma, siamo qui ormai nel tardo Medioevo, intorno al 1003-1004, quindi alla fine un po' del Medioevo, la Controriforma, che ha scatenato fiumi di sangue, di torture, di massacri in tutta Europa, ebbene i tribunali ecclesiastici distinguevano anche loro tra due forme di suicidio. E qui compare un elemento che poi servirà, diciamo, per nascondere, comunque per rimuovere, ecco, il problema del suicidio da parte di molte culture. Questo tema della Controriforma verrà ripreso nell'Ottocento e purtroppo, l'abbiamo visto la volta scorsa, poi torneremo tra un po', riviene ripreso anche in questo. Che cos'è? Il fatto che, quindi, la Controriforma continuava a dire che chi si suicida è perché ha in qualche modo accettato le cose del demonio, cioè il demonio l'ha convinto, è andato nelle braccia del demonio, però c'è anche un altro caso per cui la persona si suicida, quello che diventa una persona malata di mente, la pazzia, ricompare la pazzia. Cioè l'unico modo perché le persone nell'area cattolica o cristiana, ormai la frammentazione nel mondo cattolico c'era già stato, quindi c'erano aree cristiane, gli anglicani, i luterani, eccetera eccetera. Quindi per sfuggire alla demonizzazione, quindi a non avere la funzione, a non avere la sepoltura nei luoghi, nei cimiteri cristiani, molti dei parenti di alcuni suicidi dicevano che era dovuto a quella morte volontaria, era dovuto a una insanità di mente, quindi alla pazzia. Era un modo per sfuggire alla condanna demoniaca che tutta la cultura cristiana affermava, e quindi si comincia ad affermare che porta questo fatto qui, che appunto la gran parte, siccome mi sono dimenticato di dirlo, quando il fatto che la cultura cristiana e come le altre, quelle che condannavano il suicidio perché eri stato avvinghiato dal demonio, non solo vietavano la sepoltura e la funzione, ma anche venivano requisiti tutti i beni materiali, e che non andavano ai parenti, ai discendenti, agli eredi, ma andavano alla chiesa, l'autorità che sovrintendeva quel territorio. I parenti, per evitare che gli togliessero i beni, dicevano: sì, è vero, quello, mio padre, mio zio, mio nonno, cioè, mi si è suicidato perché era in preda a un'insanità di mente, quindi perché era pazzo. In questo modo potevano evitare quelle sanzioni. Quindi si sviluppa enormemente, i dati dei primi medici che raccontano. Sì, ovviamente la causa di pazzia, perché era più conveniente per i parenti, per evitare che gli sequestrassero i beni, dicevano: sì, è vero, era pazzo, aveva dato già segni di pazzia precedentemente. Quindi l'insanità mentale diventa centrale, e siamo intorno, siamo nel 600, 700, questa cosa arriva fino nell'800, quando dei chiamiamoli studiosi, anche se il termine è un po' regalato, tipo come Lombroso, come alcuni positivisti, affermano secondo loro scientificamente, facendo un incrocio di dati un po' cervellotici, un po' a vanvera, in cui affermano che le persone che si suicidano sono persone che hanno un difetto mentale fin dalla nascita, e in più ci mettono anche che addirittura per aver fatto quel reato, anche colui che fa un reato, il delinquente, anche lui non lo fa per scelta volontaria oppure perché l'ambiente in cui stanno, no, ma perché è colpito da infermità mentale, da insanità mentale. Allora la pazzia comincia a diventare, e siamo alla metà dell'Ottocento, e non l'elemento centrale, cioè ci si suicida perché si è pazzi di mente. Diciamo, quella sorta di laicizzazione che le società europee hanno vissuto, invece di portare un miglioramento, sì, è vero, non è vero che, cioè, per togliere via che i suicidi sono andati nelle braccia del demonio, però diventa quasi peggio, insomma, comunque si sposta dal demonio all'insanità mentale. Quindi non è più colpa che ci ha ghermito nelle braccia del demonio, ma ci ha ghermito l'insanità mentale. C'hai meno, con l'insanità mentale c'hai meno marchi di infamità, perché se in quell'altro caso significava che tutti i tuoi discendenti erano più o meno bollati come persone diciamo alleate del demonio, invece con la pazzia ti salvavi un pochetto, però diventa una cosa spaventosa. E appunto alcuni testi che si presumono scientifici, che ritenevano di essere scientifici, come Lombroso, come Schirol, come tantissimi, fanno dei trattati in cui, parlando di malattia mentale, che la malattia mentale è quella che porta a diventare criminale, cioè a trasgredire la legge, poiché la legge veniva assunta come fatto, la legge è quella buona, è quella giusta, è il miglior comportamento che ci sia, chi la trasgredisce vuol dire che non sta bene di testa. E quindi, così come la vita è il maggior dono, cioè chi la distrugge è perché è insano di mente. E quindi viene fatta tutto questo discorso della malattia mentale, diventa centrale per affrontare il tema. Siamo a metà dell'Ottocento e questa cosa rimane abbastanza in forza, poi viene sparisce un po' nel Novecento. Due settimane fa, la trasmissione precedente, abbiamo letto con viva preoccupazione, no? Che la società di psichiatria italiana ha detto, si è interessata dei suicidi e ha detto che probabilmente il carcere, poiché induce malattia mentale, induce anche al suicidio. E allora uno si aspetterebbe, se una persona normale, semplice, logica dice, vabbè, se voi psichiatri dite che il carcere produce malattia mentale, la prima cosa che dite, la seconda dovrebbe subito dire, bene, facciamo fuoco e fiamme per chiudere i carceri, perché se c'è una struttura che noi scientifici, perché si ritengono tali gli psichiatri, anche se non lo sono, si ritengono, cioè, diciamo che il carcere induce malattia mentale, è chiaro che la prima cosa da fare è chiudere. Non è possibile che uno Stato che si dice democratico, al servizio dei cittadini, tenga in piedi delle strutture che provocano la malattia mentale. Quindi uno si aspetta, adesso vedremo barricate di psichiatri nelle strade che dice chiudete i carceri perché, ma che? Ma che? Evidentemente noi forse da normali abbiamo pensato queste cose, quindi o noi non siamo normali o non lo sono loro, cioè delle due l'una, non è che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, perché se una società, non uno qualsiasi che passava per la strada, la società di psichiatria italiana, no? Con tanto di... di premi vinti nei convegni eccetera, dice che il carcere produce malattia mentale, e allora e poi non fa come conseguentemente una battaglia per far chiudere il carcere, vuol dire che qualcosa non stanno bene loro o non stanno bene noi, io non li capisco, non li ritengo degli esseri umani se uno che ragiona così dice no, vabbè, il carcere produce malattia mentale, però lasciamolo perché così ci facciamo i soldi, dicono. Allora facciamo un giro per le carceri. Hanno tirato giù delle linee guida per contrastare, no, questa demenza che il carcere induce, stanno facendo dei giri nelle varie regioni italiane, raggruppando i direttori dei carceri, i funzionari eccetera, che sovrintendono alle prigioni, per spiegare loro che debbono fare. Si tratta di mettere nelle infermerie psichiatriche nelle carceri e imbottire i detenuti di psicofarmaci, cosa che sta succedendo, perché alcuni dati ci dicono che ben il 60% delle persone detenute sono imbottite di psicofarmaci. Ora, appunto, delle due l'una, o è una baggianata, no? Per fare i soldi, e questo lo fanno tutti, no? Io dico una stupidaggine, perché così faccio i soldi, vendo psicofarmaci e multinazionali mi riempiono di soldi, va tutto bene, questo sta nell'ordine delle cose, perlomeno l'ordine di cose di questa società attuale, questa società capitalistica funziona così, se funziona solo ciò che produce profitto, soldi eccetera, e va bene, allora è quella, però significa che voi non siete più, non vi saluto nemmeno se vi incontro per strada, se facessi il barista non vi darei neanche il caffè, oppure soltanto sputandoci dentro, insomma fate schifo, perché appunto utilizzate le debolezze delle persone per lucrarci sopra. Se invece pensate veramente che il carcere produce malattia mentale e quindi conseguentemente il suicidio, quindi è una macchina di morte, e non chiedete la chiusura, vuol dire che siete dei criminali allo stesso livello dei nazisti che c'erano i campi di concentramento, che sapevano che produceva morte anche se erano costruiti per quello, e non facevano nulla per chiudere. Cioè, siamo a quel livello lì. Delle due l'una, decidete voi quale, cari psichiatri, quale volete scegliere, no? Ecco. Va bene, andiamo avanti in questa presta, perché la cosa è agghiacciante. C'ha delle sue retroterre, abbiamo visto nella Controriforma, metà dell'Ottocento, il positivismo razionalista, questa follia di pensare di voler trasformare il mondo. Poi vediamo in Italia che succede. Nel codice penale del Regno di Sardegna del 1859, che poi diventa subito dopo, due anni dopo, quello del codice penale del Regno d'Italia, viene depenalizzato il suicidio, non ritenuto una cosa normale, rimane come fatto, diciamo, che non va compiuto, però depenalizzato. Poi abbiamo il e poi diventa e poi sparisce direttamente dai vari codici penali, quello Albertino eccetera. Quindi attualmente il codice penale e i codici penali italiani e in generale quelli europei non condannano il suicidio. Sapete qual è l'ultimo paese tra quelli europei, parliamo di quelli europei che abbiamo studiato, gli altri non è facile capire, sapere queste cose con dettaglio. L'ultimo paese che ha depenalizzato il suicidio, sapete qual è? Quello che ha provocato più danni all'umanità in genere, ma soprattutto alla sua popolazione, ed è l'Inghilterra. L'Inghilterra ha aspettato il 1961, l'altro ieri, 1961, per depenalizzare col Suicide Act, il suicidio è stato depenalizzato, l'ultimo paese. Va bene, va male, e allora per ora in Europa da nessuna parte viene penalizzato il suicidio, ma non in carcere. In carcere il suicidio non è consentito. se uno si suicida in carcere, che cosa fa come reato? Reato disturba la funzionalità del carcere. C'è un reato apposito che parla, che nomina così: disturbo della funzionalità del carcere. L'atto d'autolesionismo, il tentato suicidio e il suicidio sono queste cose. Per cui se uno si suicida, vabbè, non gli possono levare altre cose perché si è tolto la vita, ma se uno si suicida e non ci riesce, cioè il tentato suicidio, perde tutte le possibilità offerte, il permesso, la semilibertà, l'affidamento in prova, il lavoro, queste cose, che diciamo le misure alternative a cui può accedere un detenuto. Se uno fa un tentato suicidio perde, come se avesse fatto una rivolta, come se avesse fatto un'aggressione a una guardia, ecco, perde completamente tutto. È un re, quindi continua a essere un reato nelle carceri italiane. Vedete che grandi sviluppi abbiamo fatto. Treat me wrong. Come and love you, daddy, all night long, all night long. Hey, hey. And a pretty little girl, but I lose my baby boy, ain't that bad? And a pretty little girl, I lose my baby boy, ain't that bad? You ain't got. Can't lose some little girl that you ain't never had. But I was called to the session. Had money in the bank, but I got busted, people ain't that bad. A sweet little home, but it got went down, people ain't that bad. That's my own fault. People ain't that bad. You can't spend what you ain't got. Can't lose something good you ain't never had. Led astray from your heart. Keep us so near while apart. I'm not alone in the night. And I kiss the name that you signed. And darling, then I read again right from the start. Love letter straight from your heart. Allora, riprendiamo dopo questo excursus storico, scusate se forse un po' lungo, però permette, diciamo, perlomeno credo possa permettere a chi ascolta di entrare un po' dentro l'argomento di cui si parla, no? Perché il suicidio sembra una cosa così, c'ha avuto una sua importanza fin dall'antichità in tutte le società umane. Allora, entrando al carcere, no? In carcere le persone si suicidano molto più che non fuori. Prima, negli anni, diciamo dal dopoguerra, gli anni 50, 60 e 70, si suicidavano 6-7 volte di più di quelli fuori, quelli in carcere. Adesso le volte di più è diventata 20, cioè in carcere si suicidano 19-20 volte di più. Quindi è schizzato in alto. Non solo, ma il numero dei suicidi, che per tutti, per esempio, gli anni 60 e 70 oscillava intorno a 8-9 l'anno, suicidi, negli anni recenti, dagli anni 90, 2000 ad oggi, negli anni 90 e 2000 è arrivato addirittura a toccare 60-70 morti l'anno. Adesso si è sistemato intorno ai 45-50, molto alto, no? Come vedete. Perché questo incremento? Lo vedremo, perché è importante capire, ecco, c'è stato un momento di svolta nelle carceri in cui il suicidio ha avuto un'impennata, e non solo il suicidio, anche le altre due fenomeni che l'accompagnano, il tentato suicidio e gli atti di autolesionismo. Perché? Vediamolo con calma. Intanto, primo punto, è affermato ormai da tutti i ricercatori, sono tantissimi, che fin appunto dalle carceri dell'Ottocento, che le persone private della libertà si suicidiano molto più quando stanno in isolamento che non quando stanno in detenzione collettiva. Perfino i lavori forzati, che sapete, quelli in America, l'abbiamo visto nei film, sono, ma anche qui da noi c'erano, durante appunto il Regno Sabauto, c'erano in Sardegna, che facevano fare dei lavori incessanti. Comunque, i lavori forzati, nonostante che siano duri, feroci, pieni di sofferenza, i detenuti si suicidavano poco relativamente, mentre invece quelli che stavano in isolamento si suicidavano molto di più. Ovviamente l'isolamento, che è stata una teoria sviluppata negli Stati Uniti d'America, nello stato della Pennsylvania, infatti si chiama un po' sistema filadelfiano, Filadelfia è la capitale della Pennsylvania, che è uno stato a prevalenza quacchero. Quacchero è una di quelle, visto che abbiamo parlato prima, diciamo, diaspore del cristianesimo, sviluppatasi in Inghilterra, poi perseguitati dalla maggioranza, e quindi sono dovuti scappare in America, e hanno costituito proprio una situazione in Pennsylvania. Hanno costruito delle carceri in cui, secondo il loro principio, essendo molto religiosi, le persone che facevano reati dovevano essere messi in isolamento, non, nel silenzio assoluto, c'era il silent system, sistema del silenzio, non potevano parlare con nessuno, nemmeno con la guardia, rispondere solo il sì e il no con un cenno del capo, quindi non potevano parlare. In cella avevano soltanto un testo sacro, la Bibbia, credo, queste cose qua, e basta, e casomai delle piccole cose per fare dei lavori, ma che potevi fare? Cioè, spesso gli facevano grattare dei legni duri, no? Raschiare dei legni duri per tirare fuori una polvere che serviva poi per le vernici. L'isolamento produceva appunto un numero di suicidi molto maggiori, questo lo dicono fin dalla metà dell'Ottocento le prime ricerche fatte seriamente su questo terreno. Addirittura 5, 6, 7 volte di più che non la vita collettiva, che a volte era pure più dura, perché avevano frustate, lavori massacranti, però comunque evidentemente c'è qualcosa che tocca l'interno. Però un'altra cosa, l'isolamento produceva appunto quello filadelfiano, che è stato il più diffuso, anche stati di pazzia, di insanità mentale, cioè le persone che stavano 4, 5, 6 anni in isolamento, poi dopo da lì in genere o appunto si suicidavano o andavano a finire in manicomio, perché non davano più segni. Ora, questo è un dato di fatto. La cosa drammatica è che questa situazione, che insomma poi è stata chiusa perché era abbastanza insomma, piacque molto, entusiasmò molto degli intellettuali francesi, Tocqueville, che non è l'ultimo randaggio. Tocqueville e altri suoi, una commissione di francesi nel periodo dell'illuminismo, si recò in America per vedere com'era la situazione delle prigioni. ne vide tanti dai lavori forzati a questo dell'isolamento al sistema filadelfiano, si innamorarono del sistema filadelfiano, l'isolamento, perché in cui entravano in questi reparti delle carceri dove c'erano cellette singole, c'era un silenzio di tomba, nessuno si faceva male, ovviamente non si potevano toccare, perché i suicidi però non, in genere si suicidavano silenziosamente queste persone, con l'impiccagione era la cosa più semplice, quindi non è che davano, sfasciavano tutto, gli arrivava, subentrava un'apatia devastante. La poi introdussero nella Francia, diciamo, ormai illuminista, che poi dopo poco fece la rivoluzione, e anche durante il periodo rivoluzionario della rivoluzione francese, nella follia, perché poi razionalista, che aveva colpito un po' le classi dirigenti francesi, pensavano di poter regolare tutta la vita degli umani, e allora in un carcere a Mazas riprodussero il sistema carcerario di Filadelfia, cioè celle singole, isolate, eccetera. Successe un'ira di Dio, un massacro, nel senso che la gente moriva come mosche e ne usciva pazza, e poi alla fine lo chiusero. Quindi la gente si suicida quando perde la socialità. Ora, che cos'è l'isolamento e il carcere se non rottura fondamentale della socialità? Cioè, una persona quando viene arrestata, la prima cosa che ti tolgono è appunto la socialità, cioè gli amici, gli affetti, le persone care, i compagni, le cose con cui vivi, male o bene vivi, quello te lo tengono e ti mettono in un posto dove non c'è nulla, perché il primo impatto del carcere in genere è l'isolamento. Questo anche oggi, anche in Italia, anche non sfuggi, vai in una cella del commissariato, come abbiamo detto, no? Trattato male, ma questo ormai è la realtà, e poi viene messo in carcere isolamento in attesa che il direttore decide dove poterti mettere, perché poi studia la tua cartella, vedi chi sei, con chi stai bene, con chi stai male, eccetera. Bene, e a questo punto quindi il problema diventa che l'analisi di quando avvengono i suicidi. Infatti avvengono nei primi giorni di detenzione. Addirittura per grossi i primi 10 giorni di carcerazione avvengono circa un terzo dei suicidi, i primi 10 giorni. L'andamento è questo: i primi 2 o 3 giorni non avvengono sempre, ma non tantissimi. Cominciano a incrementarsi il 5º, 6º, 7º, 9º giorno, cioè quando la persona entrata in carcere comincia a rendersi conto dove sta. Gli arrivano addosso tutti quei ricordi di ciò che ha perso, la socialità, gli amici, gli affetti, tutto, e che ha il terrore di non poterla più recuperare, perché pensa, perché questa è l'impressione che ti dà il carcere, questo te lo dice addirittura il primo secondino che incontri, e te lo dice il giudice, e te lo dice proprio la struttura penale di questo paese, la struttura punitiva di questo paese, ma anche degli altri, ti dice: tu sei un criminale, da oggi in poi tu sei, questa società ti ha bollato come criminale, e anche se uscirai dalla galera non rientrerai più tra le persone che invece vivono in piacevolmente, posso immaginare come, voi sapete come, ecco. Quindi questo marchio che il carcere ti mette appena entrato terrorizza la gente sul fatto che possiamo ritornare indietro, no, e quindi quando ha messo a fuoco questo problema avviene, i dati ci dicono, il 4º, 5º, 6º, 7º giorno, ovunque. Quindi un terzo delle persone si suicida i primi 10 giorni, altrettanto si suicidano entro il primo mese, e il 75% entro il primo anno. Quindi i tre quarti si suicidano entro il primo anno, quindi è il primo impatto. Superati i primi anni, poi è raro, perché in genere quando gli anni successivi, perché succede qualcosa da fuori che abbatte ancora di più la persona carcerata, perché dopo il primo anno un carcerato in genere primo o secondo anno ci hai preso un po' le misure, hai messo in moto quei meccanismi difensivi di resistenza in grado di reggere il terrore del carcere, perché il carcere induce terrore. Oggi si fa un uso smodato della parola terrorismo, nel modo più imbecille che i giornalisti hanno dato prova della loro incapacità, veramente incapacità intellettuale, usando a sproposito la parola terrorista, ma Però invece il terrore vero, provatelo, se è quello che si prova entrando in un carcere. E questo, quindi questi dati, l'elemento centrale su cui vogliamo richiamare la vostra attenzione è proprio perché a un certo punto, pur essendo sempre più numerosi di quelli fuori i suicidi in carcere, pur essendo 5, 6, 7 volte superiore a quelli fuori, pur essendo un grave danno che non si riusciva a affrontare, da una certa data in poi, una data precisa che avvengono delle cose, schizzano in alto e diventano 20 volte, cioè si moltiplicano di 3, 4 volte, da 10, no, 8, 9 suicidi l'anno arrivano a 60. Come mai? Che è successo? E qual è questa data? Tra un attimo ve lo diciamo. Questa data in cui avviene questa svolta clamorosa in cui ancora siamo inseriti, perché da allora appunto sono schizzati in alto i suicidi, i tentati suicidi ancora di più, 10 volte rispetto a quelli degli anni 70, 60, 70 eccetera, e la data è il luglio 1900, l'estate 1975. Che cosa era successo nell'estate 1975? C'è una data, 26 luglio 1975, approvazione della legge 354, che è la riforma penitenziaria. venne approvata la riforma penitenziaria nel luglio del 1975. Se ne parlava da anni, era stato il portato di quelle le richieste fatte dai detenuti, che ormai dal 68-69 hanno iniziato un ciclo di lotte molto forte, proteste, rivolte, occupazione di carcere, molto molto forte, ne parla tutto il mondo di quel periodo di rivolte carcerarie in Italia, in cui si selezionò un livello, diciamo, di detenuti molto intelligente, attento, preparato, che propose delle riforme con un'intelligenza enorme, perché appunto dicevano: visto che non c'è ancora la possibilità di spazzare via sto maledetto carcere, però perlomeno togliamo quelli che sono gli elementi più negativi, quelli che stroncano la persona, quelli che distruggono l'identità della persona, che la danneggiano irreversibilmente, che devastano. E quindi fecero una serie di proposte. All'inizio, i primi anni 70, 71, 72, 74 addirittura, il ministro di allora andò a visitare le carceri e prese questi scritti, queste proposte che hanno fatto i detenuti, che hanno molto fatte bene, molto interessanti, che girarono tutto il mondo, ancora oggi le studiano in alcune università, non italiane, per carità, italiane non si sa, ma per esempio negli Stati Uniti d'America, in Canada studiano queste, e quindi si pensava che almeno alcune di quelle proposte fossero state prese dalla riforma penitenziaria. Ma che? La riforma penitenziaria dal 74 cominciò a passare, come ha fatto per esempio la legge sulla tortura, comincia a rimbalzare come una pallina da ping pong, da una Camera, Senato, Senato, Camera, ogni passaggio peggiorava qualcosa, ogni passaggio toglievano qualcosa. Quando fu approvata nel luglio 75 faceva letteralmente schifo. Certo, toglieva quello che era l'alone buio, nero del regolamento fascista, perché questo è bene ricordarselo nelle commemorazioni della resistenza, della liberazione. Ricordate sempre che in Italia c'è stata la resistenza, c'è stata la fine del regime fascista, ma non c'è stata una liberazione, per esempio, perlomeno non nelle carceri, dove per ancora 30 anni, dico 30 anni, i codici e anche i regolamenti fascisti erano attivi nelle carceri. Nelle carceri italiane fino al luglio 75 era in vigore il regolamento carcerario scritto e firmato da Mussolini, non scritto da lui, ma insomma scritto dai suoi giuristi Rocco e compagnia bella. E quindi questa è la liberazione. In Italia per 30 anni le regole in carcere erano quelle del regime fascista. Nel 75 queste cose vennero buttate via, come la censura, il ritaglio dei giornali, l'impossibilità di scrivere più di una lettera a settimana, queste cazzate qua, ma tante altre feroci, però non raccolsero niente di quelle che erano state le idee, innovazioni proposte dai detenuti, anche da una parte di società italiana che si era affiancata alla lotta dei detenuti, che proponeva queste cose. C'erano pure dei giuristi, dei magistrati molto interessanti. Bene, quindi fu una cosa schifosa, perché in Italia nel 74 era successo una specie di colpo di Stato. Non lo racconta, nelle scuole non se ne parla, una specie di non colpo di Stato, quelli finti con i cosi, no? Con le guardie come erano lì, no, proprio fatto a livello parlamentare, cioè fu fatto un governo bicolore di PRI, Partito Repubblicano, su questo terreno della giustizia, il più feroce, il più giustizialista e forcaiolo. Fu questo governo Moro Lamalfa, Ugo Lamalfa, non quello di adesso, il padre, che penalizzò tutto: l'occupazione di fabbriche, lo sciopero, il picchetto, il corteo, diede in mano il potere ai militari. Quindi un golpe. Non chiamato così, perché l'Italia, perché non si poteva, c'è sempre stato, è il paese più democratico del mondo, è il paese dello Stato di diritto, tutte fregnacce, vengono, poi si lamentano perché i ragazzini a scuola non stanno attenti. Ma se dite queste baggianate, cari professori, ma come pensate che i ragazzi stiano attenti? È chiaro che giocano col telefonino, chiusa parentesi, però perché la maggior parte dei professori dicono stupidaggini, sì, è chiaro, a scuola. Poi ci stanno anche i casi eccezionali, però poi è il numero che fa il totale, come diceva Totò. No, insomma, quindi questa grossa sconfitta di tutta la società, in fabbrica era difficile scioperare, nelle carceri cominciarono ad arrivare, furono dati poteri al generale dalla Chiesa, che cominciò ad affrontare le rivolte carcerarie con le mitragliatrici. Nel 74 ad Alessandria portò 8 morti mitragliati in cui c'erano pure degli ostaggi, perché non gli fregava niente, un morto di più, un morto di meno. Cioè, non è quello il modo di fermare, è una specie di microattica, quello che in America fu la rivolta di Attica. Però in America era una normalità sparare sui detenuti in lotta, in Italia non è, in Europa non era una normalità, non lo faceva quasi nessuno. Ma in Italia, col golpe del 74, col governo Moro La Malfa, si cominciò a sparare sui detenuti, perché vennero dati pieni poteri al generale Carlo Alberto dalla Chiesa, che poi costruì carceri speciali, che poi mise quello che adesso è il 41 bis, allora fu chiamato articolo 90, però divieto di tutto, cioè tutto contrario a, per chi ama vedere questo, tutto contro la Costituzione, perché lui la Costituzione diceva spesso: io non ho tempo di leggere la Costituzione, devo reprimere chi fa il disordine. E non aveva tempo, e quindi probabilmente non l'ha letta, non lo so, però comunque questo era, tanto per dire, gli eroi di questo paese bisogna poi riportarli un po' sulla terra. Vabbè, comunque quella data di luglio lasciò il mondo della popolazione tenuta nelle ambasce più tremende, perché erano perso una grande occasione, dopo anni e anni di lotte eccetera, il risultato era stato bene. La risposta fu subito, qui a Rebibbia il mese non era passato nemmeno un mese, il 26 luglio fu approvata la legge, il 25 agosto, quindi 30 giorni dopo, il carcere di Rebibbia fu occupato dai detenuti. In risposta, con la parola d'ordine: avete fatto una riforma truffa. Alcuni giornali la riportarono, il Manifesto, alcuni giornali, e il governo ha fatto la riforma truffa e i detenuti rispondono con l'occupazione del carcere. La risposta dello Stato fu l'esercito contro i detenuti di Rebibbia nel 75, molti di noi se la ricordano, perché fuori ci andò gran parte della popolazione, allora si andava fuori dalle carceri, con gli elicotteri arrivarono e spararono gas lacrimogeni, ma anche proiettili sugli occupanti che stavano sui tetti. Quindi fu stroncata nel sangue. Altre rivolte fu in tutto il paese per dire no a questa riforma truffa, noi volevamo altre cose. La repressione fu feroce come mai vista in nessuna parte del mondo, sicuramente non in Europa. Ebbene, quindi su questo massacro, distrutti, chi si ribellava, chi faceva le rivolte, a parte via le schioppettate degli uomini dalla Chiesa, che succedeva? Che prendeva isolamento lunghissimo, il letto di contenzione c'era per chi faceva le rivolte, il letto di contenzione, cosa meravigliosa, no? E ovviamente quello che si chiama si allunga la cavallina, cioè condanne lunghissime, che è capace che è rientrato per fare 3-4 anni e finivi per farne 20, se non di più. Che doveva, come doveva rispondere? Hanno provato in tutti i modi a lottare, a dire no alla riforma truffa. Che cosa potevano fare ancora? Sono crollati. E il crollo di una popolazione, la sconfitta, ormai nel frattempo anche la società esterna si era allentata dalla solidarietà col carcere, non gli è rimasto che il suicidio. I dati dicono che dopo il 75 inizia l'impennata dei suicidi, la data è quella, bisogna ragionare su quello, sul golpe del 74 di cui non ne parla, la repressione feroce del più criminale che mai vista, quindi tutti questi eroi che tiriamoli giù e chiamiamoli criminali, perché se si spara sui detenuti che stanno facendo una rivolta pacifica in un carcere, stanno sui tetti, hanno soltanto delle tegole in mano, non gli si può sparare con la mitragliatrice, perché se no si è criminali, e così via, no? Tutte queste altre cose. Cominciarono a sviluppare l'articolo 90, i carceri speciali, tutte quelle cose che bene, male, e molti, e cominciò, si impennarono i suicidi, perché la risposta: se non posso cambiare quel minimo che c'ho intorno, qualche persona pensa che cambia la propria vita passando da quella viva a quella non viva. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby Bene, siamo in chiusura. Questo è un primo affresco, se volete. Non, come avete visto, non credo di aver dato risposte esaustive, esaurienti su che cosa è il suicidio, però alcuni elementi storici e attuali specifici di questo paese, alcune svolte per poter riflettere che cos'è il suicidio. È ovvio che se tu non riesci a cambiare ciò che c'è intorno a te, in qualche modo te la pigli con te stesso, chiaro questo, no? Quello è un primo elemento, non è la soluzione, non è buttando via tutte le baggianate della pazzia, dell'insanità mentale, del demonio, ecco, lasciamo perdere queste cazzate a chi ci crede, e ragioniamo e cominciamo a ragionare. La prossima volta, fra 15 giorni, parleremo pure di ciò che c'è intorno al suicidio, i tentati, gli atti da